Mentre andavano lungo il margine, i rovi ritraevano le spine come fanno i gatti con i loro artigli. Bisognava vederli, 50 gatti neri, altrettanti gialli e poi lei, e non si riusciva a capire con certezza se fosse un essere umano. Bastava l'odore a scatenare il dubbio, un misto di spezie selvaggina, stalle, pelliccia ed erbe. A cavallo di una ruota prendeva le strade più impervie, tra precipizi e alberi. Chi non ha mai viaggiato su una ruota lo crederebbe difficile, ma lei c'era abituata. Leonora Carrington, mentre andavano lungo il margine.